Ci siamo? Ci siamo, ragazzi. Si comincia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao Ilaria, un po' che la palla a Madano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili: cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita. Forza Sampdoria, ne la faccio più. Ah, ci è mancato che niente, ci è mancato, sì, la fortuna tanta, hanno vinto tutti i rimpalli. E che devo dire? Sono un po' arrabbiato perché ero convinto di vincere. Pensa, se vincevo mettevo la canzone Volare e facevo come Montella, facevo l'aeroplanino. Forza Samp. Posso solo dire che abbiamo fatto una grande prestazione, siamo stati superiori totalmente al Napoli e io posso dire che questi ragazzi si meritavano i tre punti tutti quanti. Meritavamo una grande vittoria, però come dite voi il calcio è questo, e vado a casa mezzo infartuato perché ci ho creduto. Marco. Bene presidente, vedo che prevale insomma la soddisfazione per aver visto ancora una volta la sua Sampdoria giocare bene, no? Marco non c'è, è andato via. No, vuole Laura, non c'è. Marco non c'è, di Laura Pausini, Marco... la solitudine, grande citazione. No, comunque c'è il medico, c'è il medico qua che ci guarda, tranquillo. Sì, mi sa che dovrebbe intervenire Marco. Subito. Sì. Non sento, Marco, cosa dici? No, credo che non ci sia poco da sentire. No, non sapevo che sapesse cantare anche. La ringrazio, presidente. Grazie. No, Marco, ti saluto. Sei un grande, ti stimo molto. Mitico. Però comprate qualche microfono perché non si sente niente. Allora è davvero che non si sente. Grazie, grazie. Forza mille. Forza Sampe, sì, Marco. Sì, sì, va bene. Grazie. Abbiamo dominato. Grazie. Per 90 minuti, ci ho creduto. E ci rifaremo la prossima volta. Grazie al nostro cuore e al fondo schiena d'Aurelio. Un punto per uno non fa male a nessuno. Beh. Ma perché uno ascoltatore mi scrive basta questo viperetto, non se ne può più? No, ma perché? Tra l'altro l'ha presa benissimo ieri, È mezzo infartuato, poveretto, stava male. Era ridotto uno straccio con la sciarpa annodata in testa. Ha preso il gol di Zapata all'ultimo secondo, Giovanni Capuano. Ma ha diritto di sfogarsi? No, di secondo cantare, me ha assolutamente diritto. Tra l'altro ha anche un problema: che la prossima volta, se gli calano ancora la sciarpa di un centimetro, ce l'ha davanti agli occhi, la partita se la fa raccontare direttamente. Sì, tanto che ha detto abbiamo perso questa partita, sono mezzo infartuato. In realtà l'ha pareggiata la Sampdoria, che comunque ha giocato una grande gara, molto meglio del Napoli, se vogliamo passare dal fronte viperetta a quello calcistico di cui poi parleremo. Intanto Genova rimane la città del momento, seconda in classifica dietro Roma, prima in classifica 51 punti, seconda la Lanterna che brilla con 45. Milano? Ah, Milano 38, non la vede neanche da lontano, però insomma, per dirla alla Rai, ora sarebbe ora di riunificare le squadre di due città, così il calcio muore. 800 24 00 24. Neanche lo stadio insieme tengono. No, ma lo stadio, ma tanto gli stadi in Italia non nasceranno mai. E allora abbiamo visto quello di Torino, vedremo quello di Udine, sono situazioni particolari, e poi ci possono raccontare quello che vogliono su Roma, su Milano, su Genova, con il viperetto, con i progetti sotto il braccio per lo stadio al Porto. Tanto sappiamo già che noi non li vedremo, i nostri figli non lo so, ma credo nemmeno. Le domande sono invece come il Milan spenderà i 100 milioni di Fly Emirates, magari sul mercato, magari no, magari per coprire i buchi, perché la Serie A non vuole la tecnologia sulle linee di porta, vogliono gli stadi e poi dicono 250.000 euro. La letterina di Galliani? Dopo la leggiamo. Caro 250.000 Carlo. Euro. Ha scritto a te, vogliamo caro lo stadio. Sì. Vogliamo gli stadi nuovi, però la linea tecnologia sulla linea di porta no, perché 250.000 sono troppi, o 310, 320, quello che può costare. Il primo che si lamenta, lo ricordiamo, no? Che non l'hanno voluta loro. Dimmi. pensa che mettere la Goal Line Technology modello inglese costerebbe circa 4 milioni di euro, che sono un paio di anni di stipendio degli arbitri di porta, che Tavecchio, secondo me, intelligentemente avrebbe anche deciso di rottamare, perché costano troppo per i risultati che hanno dato. Quindi sarebbe un investimento mettere questa tecnologia, che ti permetterebbe, come in Inghilterra, come è successo anche sabato al Manchester United, in 3 secondi di avere la vibrazione sull'orologino e decidere che un gol di 2 centimetri era gol. Allora, io sono e sarò sempre contrario alla moviola intesa in senso moviola, vediamo se rigore, non è rigore, eccetera eccetera. Sono sempre stato e sarò sempre favorevole alla tecnologia per quanto riguarda le questioni geometriche, perché lì non è questione di discrezionalità arbitrale, è semplicemente questione di capire se una palla è entrata oppure no. È vero che gli episodi non sono moltissimi, però almeno quelli risolviamoli, poi magari si assegna anche uno scudetto sulla base di quegli episodi. Poi abbiamo sentito Nicky, perfetto simbolo della arretratezza del nostro calcio, che ha detto ieri: i soldi per la tecnologia sono sprecati. Certo. E c'è anche chi scrive, poi alla fine, premesso: mio Napoli ha giocato male, però mi chiedo come si può ancora far arbitrare un incapace come Rocchi. Su 2 rigori non ha dato nemmeno. No, Rocchi non è un incapace. Ieri un rigore c'era, quello su Albiola. No, c'era, trattenuta, sì, c'era. Sì, fa bene il tifoso del Napoli a dire il rigore c'era. Secondo me farebbe meglio a interrogarsi ha giocato così male. Sul fatto che il Napoli si trovi con gli stessi punti del Genoa. Sì, appunto, e ieri sera per la seconda volta il Napoli cammina come i gamberi, perché per la seconda volta consecutiva, dopo che c'è stata quella splendida rincorsa che l'ha portata al secondo posto, e tutti a dire al terzo posto ormai suo, invece con il Cagliari in casa, e ieri sera mi è sembrata una squadra che sta appunto camminando come i gamberi, cioè all'indietro. 800 24 00 24, numero verde. Vi domando anche chi sarà il pallone d'oro, altro argomento di cui parleremo, perché a sentire Platini potrebbe essere davvero l'anno di un portiere. Messi, Cristiano Ronaldo e Neuer, grandissimo fuoriclasse che ha difeso la porta della Germania fino al titolo mondiale. Platini ha detto: lo vincerà un campione del mondo, dunque dovrebbe essere Neuer, oppure no? Traffico. E cosa manca per diventare veramente grandi a questa Sampdoria? Niente. Era un messaggio, perché i miei ragazzi erano tutti Rambo. All'AIA, come organizzazione, come lavoro, come struttura, non si può tagliare un euro. Ma lo sa perché? Perché l'AIA ha bisogno di ulteriori risorse per avere arbitri di qualità, non solo a San Siro e agli altri stadi di Serie A, ma anche nei campi dilettantistici, perché non abbiamo risorse, che quelle che abbiamo sono poche. Questo è il tuo amico Marcello Nicchi, Giovanni, l'arbitro di qualità San Siro. Domenica. Sì, e c'era Valeri, arbitro di qualità, lui, Pairetto dietro la porta. Ma lui ha delle storie in sospeso con l'Udinese, sai com'è, no? Ma difatti la vera domanda non è tanto se Valeri sia da crocifiggere dal punto di vista ovviamente metaforico o no, è perché il designatore, che ha i dossier, conosce bene la storia di tutti gli arbitri, ha scelto proprio Valeri per Milan-Udinese. Ce n'erano già due di precedenti di Milan-Udinese. Va bene, ho capito, ma allora cosa fai? Non lo mandi più a arbitrare l'Udinese perché è sgradito? No, almeno perché... non Milan-Udinese. Vabbè, Milan-Udinese ha già sbagliato perché... Milan-Udinese 4-4. Anche, allora, è l'uomo che diede Udinese, il Juventus famoso rigore farlocco nella prima partita di Balotelli. Fai a meno, lo chiami per Udinese-Empoli. Io non credo sia giusto parlare più delle ricusazioni, anche se esistono poi ancora. Paradossalmente, però, stiamo a discutere di un presunto gol non gol che avrebbe potuto dare al Milan, no? Senza avere grandi ripercussioni. Poi invece ha dato al Milan un rigore che non c'era, non ne ha dato uno all'Udinese, ha espulso Essien, insomma un pasticcio colossale. C'è chi scrive, adesso mi dici la tua sul pallone d'oro, che mi, prima del traffico ti ho stoppato. C'è un ascoltatore che giustamente, Fabio da Monza, chiede: quando mandati in onda il presidente Ferrero, dovreste dire prima se quello che ascoltiamo è Ferrero o Crozza Ferrero, perché io non li distingo, anzi quello vero è molto meglio, esilarante. È molto meglio, esilarante. Pallone d'oro. No, pallone d'oro, tu hai parlato prima di Platini. La domanda è: quanto conta Platini nell'assegnazione del pallone d'oro? Conta niente. Quindi il pallone d'oro andrà quasi sicuramente a Cristiano Ronaldo, esatto. Secondo Messi. E terzo Nike, Neuer, che così avranno dato il contentino anche Noir, a tutti quelli. Adidas? Neuer credo sia Adidas. Controlliamo se cosa c'è sulle scarpette, perché non me lo ricordo. Però non è nemmeno solo un problema di marketing o un problema commerciale, è il problema che proprio il pallone d'oro è cambiato, sono cambiati i parametri, votano il miglior giocatore o quello che viene ritenuto tale, e sì, quindi non c'è nessuno che finché giocano Cristiano Ronaldo e Messi potrà mettersi sopra di loro. Mi appassiona pochissimo il pallone d'oro, così assolutamente nulla. Torniamo a Genova, sempre bellissima in quest'autunno disgraziato. Giampiero Timossi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Pallone d'oro per Otti o caca, sicuro. Per Otti o caca. Pallone d'oro per Otti o caca. Adesso cerco di parlare con il mio amico Condò della Gazzetta, non so se vota ancora, credo di sì. Sì, vota. Quindi bisogna assolutamente che porti avanti le candidature di Perotti, ok. Il problema è che votano anche nelle isole Figi, devi fare un tour, nelle isole Figi, a Vanuatu, perché oramai votano anche quelli lì. Quindi... Beh, come per i mondiali, no? E poi scopri che danno la mezza di qua e di là. Giampiero, se ascoltiamo Mino Raiola e accorpiamo le squadre delle città, no? Perché tanto non possiamo sostenerne due, ammazzando ovviamente il calcio, Roma sarebbe prima in classifica, punti 51, la Lanterna seconda, punti 45. Ma sì, però a Genova non si può colpare niente, credo, neanche a Roma. Quando ci hanno provato anche in altri sport è finito tutto, no? Sì, non lo so, senz'altro a Genova, ma credo che sia così anche a Roma, sicuramente anche a Torino, un'altra città dove ho lavorato, non si può, non avrebbe senso accorpare le due squadre. Sorprende moltissimo questo momento, che è un momento meraviglioso. Oggi giravo un po' per la città, finalmente non c'è il sole, ma quasi. E sapete, abbiamo avuto, insomma, e tutti parlano di calcio, anche persone insospettabili, quindi bello, una bella sensazione. Comunque non è casuale che in un momento così difficile per Genova e per la Liguria, almeno, no, ci sia, è una consolazione, almeno ci sia la possibilità di parlare di queste squadre che continuano a stupire. Come lo avevamo detto quando eravamo stati con voi a Genova, sì, al Salone Nautico, io continuo a essere dell'idea, non me ne vogliono i sandoriani, che il Genova sia un po' più squadra, un po' più organizzato e abbia possibilità di fare complessivamente alla fine un po' meglio. Io sono d'accordo. Io sono d'accordo. Tra l'altro il Gasp Bis è un trionfo, la squadra più bella del mondo. Ma tu non vivi a Genova, dire una cosa così. lo so, ma tu... Se te la cerchi, però. No, Gasp Bis è un trionfo, la squadra più bella del momento. L'ho vista a Cesena, meraviglioso il Genoa. Poi vai anche a vedere che Benitez e Gasperini, e perfino Stramaccioni, tutti davanti all'Inter. Soddisfazione aggiuntiva. Sì, ma insomma, Gasperini è un grande allenatore. Sono convinto di questo da sempre, da quando l'ho visto allenare per la prima volta al Genoa. Perché ha idee, perché ha disciplina, riesce a dare disciplina tattica ai giocatori, perché sa comunicare con i giocatori, insomma è un grandissimo allenatore. Però devo dire la verità, ha fatto bene, anche molto bene, la società quest'anno. Secondo me c'è un simbolo in questa squadra. Ora, io prima scherzavo con Perotti, però credo che Perotti davvero sia un giocatore straordinario. Non l'ha pagato 350.000 euro, quindi voglio dire, la Juventus si era avvicinata 2 anni fa, insomma, la valutazione era sui 14, ora esageriamo, forse 14 sono esagerati, però insomma dai 10 ai 14 milioni, quindi vedete che il Genoa è riuscito a fare un colpo straordinario, come fece un colpo straordinario analogo con Thiago Motta, sì, che era un giocatore che sembrava in difficoltà, invece poi insomma ha vinto tutto con l'Inter. Quindi io credo che il Genoa quest'anno abbia, il segreto sia quello di aver costruito una buona squadra, un'ottima squadra, spendendo il giusto. Hai l'impressione che la Samp ne stia buttando via un po' troppe di occasioni? Perché questo è un campionato dove, a parte le prime due, si viaggia davvero pianissimo, e credo che questo autorizzi tutti. Se anche l'Inter, che è staccata di 6 punti dal terzo posto, giustamente secondo me dice, con 25 giornate ancora si può fare, non hai l'idea che in questo momento, che è un momento d'oro, la Samp stia buttando via un po' troppe troppe occasioni per trovarsi poi in primavera magari a giocarsela? Ma non credo che la Samp abbia, innanzitutto anche la Samp un ottimo allenatore, poi poi l'entusiasmo del presidente, a volte un po' eccessivo. Io ho la sensazione che la SAP sia un po' oscurata da questi due personaggi debordanti. Però insomma in campo diciamo che il peso di Mihajlovic in campo si sente, quindi io non credo che Mihajlovic possa oscurare la squadra. Forse il presidente con le sue ripetute trovate in qualche modo, però è anche vero che dà grande entusiasmo alla squadra, senz'altro ai tifosi. Credo che la Samp dovrebbe, a ragione mia, l'avvicinata dovrebbe segnare un po' di più, e forse il problema, anche se ieri poi ha preso gol proprio con una bella dormita la difesa, proprio in pieno recupero, credo che forse in alcune occasioni abbia avuto qualche difficoltà dal punto di vista realizzativo. Questo lo ha sottolineato anche Mihajlovic. Però questa per me, almeno in questo momento, è una stagione dove la Samp può sorprendere, e quindi deve sfruttare al massimo questa occasione, perché ha una nuova proprietà, perché insomma è partita nel modo migliore. Che è successo? È partita nel modo migliore, mentre il Genoa forse quest'anno sta costruendo qualcosa di diverso, insomma qualcosa che può andare più avanti negli anni. Ma di quest'idea che Mancini potrebbe lasciare l'Inter a Mihajlovic l'anno prossimo, con una staffetta già pensata, preoccupa Genova? Esiste? Beh, oggi qualcuno comincia a scriverlo. E Mancini può venire alla Sampdoria? Sì, potrebbe essere. No, Mancini al Napoli o alla Roma? Ma no, scherzo. Beh, allora forse mi sembra un po' eccessivo. Un'ultima cosa, invece Giampiero. Matri dopo Borriello e Gilardino, il prossimo del ripescato nella lista dei bomber disinnescati potrebbe essere? Al Genoa, tu dici? Pazzini. Pazzini. No. Pensavo Pato. No, anche Pato, perché Pato, no? Pato chi è che lo? Pato dovevano regalarlo a Prandelli. L'hanno regalato, no. E Prandelli l'hanno cacciato, poveraccio. No, però è curiosa questa cosa, Matri dopo Borriello e Gilardino, bomber disinnescati, venite qui che vi rigeneriamo noi. Vabbè, però sai, Pazzini è un giocatore che ha grandissime potenzialità, io non capisco perché il Milan non lo utilizzi, anche se soprattutto è difficile capire perché il Milan abbia acquistato Torres se aveva già in casa Pazzini, però ormai la scelta è stata fatta, e quindi speriamo che trovi una squadra che lo possa rilanciare. A me piace molto il gioco di Pazzini, sì, anche me. Quindi credo che sia un peccato non vederlo mai in campo. Ciao Giampiero, grazie. Ciao, grazie a voi. Pallone d'oro, mi raccomando. Pallone d'oro, Perotti, assolutamente. Perotti o Caca. Adesso apriamo il ballottaggio. Grazie Giampiero Timossi, noi ci fermiamo invece un istante, poi tocca a voi, arriva Pardo, 800240024 è il vostro numero verde, Franco Piantelli del nostro autore, Fabio Cantadori il capitano è in regia, Daniele Buonamici è in redazione, a dopo. Perde palla Cascione, attenzione a Bertolacci, non c'è fuori gioco, avanti al portiere, parte il tiro a rete, ha segnato il Genoa con Matri, ha segnato subito il Genoa dopo 4 minuti. Eder, buon controllo, in mezzo a due, ancora Eder, zona tiro, calcia! Eccezionale. Nando Sanvito per noi. Ronaldo, salta Buffon! Cristiano Ronaldo al quarto minuto del primo tempo, dal centro, taglia verso l'esterno, salta Buffon, il Real è già in vantaggio. Ronaldo! Ed è addirittura 4-1 a Lisbona, a casa sua. Cervinho, dribbling secco, Cervinho, da Ingolan, prova la botta, Neuer, incredibile, una parata incredibile di Neuer. Per evitare il contropiede che può partire ugualmente, Müller non arriva sul pallone, pallone per Paulinho, ancora Neuer, Paulinho, una saga cinesca, un vetro. They wanna get my ancora la sfida con Messi. Messi! Meraviglioso Messi! Come sempre! E il Barça fane. Barça può voglia di divertirsi, di mandare un segnale anche al Real Madrid che non si ferma. Real Madrid che ha vinto 4-0 a Ipurua contro l'Eibar. Messi con il sinistro, sono 3 al 78esimo e adesso non c'è neanche più un discorso di condivisione, il record è suo. Cri, Ronaldo, Messi, Neuer, secondo Piero, lo merita Neuer, forse il miglior atleta calciatore in giro, pallone d'oro sottinteso, uno dei pochi che potrebbe giocare pure a rugby o a football, bravo in tutto, calmo e coraggioso, solo che Giovanni Capuano non fa vendere poi così tante magliette della Nike, no, dell'Adidas, no, poi, no, soprattutto, Adidas, poi soprattutto non è il giocatore Adidas, più forte Messi, del mondo, Neuer Adidas, è Adidas, Messi, Adidas, come Messi. Ronaldo invece Nike, tra l'altro ci sono le nuove scarpette. Sì, ma insomma, guarda caso, ma soprattutto il problema è che Neuer, con tutto il bene che possiamo volergli, non è il giocatore più forte del mondo, e siccome il criterio in questo momento è questo del pallone d'oro, può piacere o no, ma il criterio è questo, credo che Neuer sia destinato ad arrivare tra il terzo e il terzo posto, visto che è nell'elenco dei primi tre. Ho sentito prima il gol di Cristiano Ronaldo, sì, l'esultanza, ecco, solo per quell'esultanza lì sul 4-1 al 94esimo di una finale in cui era stato, diciamo, irrilevante, solo per quello io non lo premierei. Eppure lui l'ha fatto apposta, l'ha fatto apposta, lui voleva quella foto lì in ginocchio nella sera della finale, che non ha vinto lui, perché hanno vinto altri. Però levalo e loro non arrivano. E che è la sua copertina. Allora, invece, Platini, vi ho detto prima, certe dichiarazioni le ha fatte, poi quanto possa contare l'opinione di Platini non lo so, però ha detto queste cose. 4 anni fa io ho detto che il pallone d'oro deve essere in spagnolo, perché quando si gana la Coppa del Mondo era la Spagna, era il pallone d'oro per un spagnolo. Quest'anno ganò la Germania. Tienen algún problema con el Real Madrid o con Cristiano Ronaldo? Ma no, il mio amico Cristiano. Sì? Ma io sono sempre uguale nel mio pensiero. Una cosa, signor Platini, entre Cristiano e Messi, un nome in concreto, Neuer. Mi gusta Neuer. Para el Balón de Oro. Ripeto, perché tu non capisci nada, come il mio spagnolo. 4 anni fa io dico che il pallone d'oro deve essere a un spagnolo. Sì. Perché ganò la Coppa del Mondo. Però este anno non se lo merita in quattro, sì, è stato il miglior giocatore del football europeo quest'anno. Sì, però giusto. Anche 4 anni non ganò un spagnolo. Ma quest'anno ganò un tedesco. Ma este anno, entonces? Va a votare il mondo, non me. E la risposta è implicita: in 4 anni fa ho detto doveva vincere uno spagnolo. Sì, difatti ha vinto Messi, appunto, che fino a prova contraria è argentino. E non ha vinto la Coppa del Mondo. E non ha vinto la Coppa del Mondo. Quindi, e si era fermato alle semifinali con il Barcellona. Conta il giusto, no? Sì, conta il giusto. No, non conta nulla. Il nuovo pallone d'oro, poi Paolo Condò, da qui a gennaio ce lo spiegherà, credo, svariate volte, è completamente un premio della FIFA. Non è nemmeno più di France Football, che sì, mantiene la partnership con la FIFA, è cambiato tutto, e quindi insomma ragionevolmente vincerà uno degli altri due, così come credo ragionevolmente non vincerà forse il tecnico che più merita, che secondo me è Simeone. Secondo me è quello che ha portato al titolo mondiale la Germania. Potrebbero anche grandissimo allenatore così, con una squadra di fenomeni, quell'altro, sì, che lui ha cresciuto, quell'altro, lui ha cresciuto, se vogliamo giudicare la singola stagione, allenatore senza fenomeni, che ha compiuto un miracolo e tre quarti. Sì, il terzo è Ancelotti, che comunque ha vinto la Champions League, dando al Real Madrid la decima. Sono tre candidature che hanno tutte e tre diritto di cittadinanza. Io onestamente non riesco a pensare di non premiare nell'anno del mondiale, di non premiare chi ha vinto il mondiale. Tra l'altro lui non è arrivato lì, si è seduto sulla panchina e ha vinto il mondiale, è una squadra che ha costruito nel corso degli anni. Quindi certamente una squadra di fenomeni, però è arrivato all'apice del suo lavoro. Silvano Cremona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Stavo ascoltando prima il discorso sulla tecnologia e gli arbitri, così. Ma mi veniva da pensare che comunque era dovuto al fatto che nonostante il calcio sia uno sport il più diffuso al mondo, non sia ancora effettivamente uno sport globale, perché se guardiamo il bacino più grande, che dovrebbe essere gli Stati Uniti, non c'è una grossa, c'è solo seguito a livello femminile, sì, ma a livello maschile non c'è. E vabbè, non è nelle loro tradizioni, anche se stanno per l'ennesima volta per andare. Non è vero che non è nelle loro tradizioni, bene o male sono arrivati anche abbastanza avanti negli anni 30. Se un giorno dovrebbero vedere magari un certo tipo di investimento in questo sport, potrebbe benissimo anche decidere la FIFA di venire incontro a quelle che sono le esigenze degli Stati Uniti e cambiare a livello televisivo, perché comunque qui, se vogliamo dirla tutta, secondo me a livello televisivo per gli Stati Uniti non esiste il calcio. Sì, è anche una questione di tradizioni, di gusti, di storia. A parte che il movimento statunitense è in crescita, l'ha documentato anche la crescita stessa della nazionale statunitense, come abbiamo visto ai mondiali. C'è l'ennesimo tentativo, no, Giovanni, di rilanciare il campionato americano, il campionato statunitense, ma con la formula ti ricordi, Pelé, Beckenbauer nei Santos. Adesso è chiaro, si vanno a prendere giocatori a fine carriera molto, molto popolari. Comunque questo tentativo di rilancio del calcio a stelle e strisce esiste, poi il resto la fanno i gusti, insomma. Sì, loro hanno questo grandissimo bacino perché giocano in tantissimi a soccer nelle università, nei college, e quindi non mi stupisce che a livello di nazionale poi abbiano una nazionale che riesca ad esprimere un certo livello di competitività. Il resto è difficile da mettere insieme in un paese che è molto aperto a tutti gli sport, però ha degli sport che dal punto di vista economico industriale oramai sono dominanti e si mangiano praticamente tutta la fetta di mercato. Non è semplice, non è nemmeno detto che sia obbligatorio che il calcio debba sfondare negli Stati Uniti. Esattamente, si può vivere senza, e questo non c'entra nulla secondo me col discorso della tecnologia. Cioè la Serie A è un'industria da 1,5 miliardi di fatturato all'anno, non riesco a capire perché non possa investire 4 milioni di euro per dotarsi di qualcosa di innovativo. Perché Nicky ha detto che non è il caso. Senti. È un problema di utilità primo e di costi e anche organizzazione dopo, perché quando, come si dice, dovesse essere introdotta la technology line. Quanto costa la goal line technology, presidente? Come dice? Quanto costa la goal line technology? Secondo me una cifra assurda. Ad esempio? Si parla, perché io non lo so, di 250.000 euro a stadio. Come in Inghilterra. Dopodiché io vorrei valutare se bene spendere questi soldi in una telecamera per vedere un gol non gol in mezzo a 100 partite, che fra l'altro gli arbitri di area non hanno mai sbagliato, oppure no. Ma questo le valutazioni farà qualcun altro. Costa troppo, Giovanni? Ma sì, costa troppo, sono circa 4 milioni di euro e avresti risolto per sempre il problema del gol non gol, che non è vero, non succede tutte le domeniche in tutte le partite, però quando succede è un polverone, con Gagliani che scrive le lettere. Ma eccetera, poi è una questione di immagine, secondo me, perché Nicky sta dicendo tra le righe che gli inglesi non hanno capito nulla. Ora, la Premier League è il campionato dal punto di vista dell'appeal, dal punto di vista degli sponsor, dal punto di vista dei fatturati, anche dello spettacolo migliore del mondo. Se loro lo hanno fatto, perché noi dobbiamo dire che sono soldi buttati via? Cioè, è evidente che c'è proprio un errore di percezione. Sì, sono d'accordo. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Vuoi la tecnologia sulla linea di porta o no? A chi vuoi dare il pallone d'oro? Il pallone d'oro lo darei a Cristiano. Neuer no. Guarda, non lo darei a me. Devo dire che Cristiano, sono della vita, con i vecchi parametri Neuer, ma io l'avrei dato a Müller. Aspetta che ti richiamo, perché secondo le migliori tradizioni dell'iconografia classica non si sente un cazzo. Carlo da Fermo, buongiorno. Dica. Niente, Carlo, può passare il telefonino a Pierre? Cosa state parlando, diciamo, delle tecnologie? Ecco, io vorrei sapere soltanto una cosa: dove stavano gli abiti di porta quando l'anno scorso il gol del Milan entrò 1,20 m? Quale? Quello di Muntari, dice? Nel 2012, due anni fa, che non c'erano. Cioè, come si fa, però? Come fa Buffon non accorgersi che è entrato 1,20 m? Sì, ma non è il mestiere di Buffon quello di dire: no, aspetta, è gol. Io su questo, insomma, è chiaro che sarò impopolare o avrò una posizione magari non troppo sportiva, però non è il mestiere di Buffon quello di dire: no, guarda che è dentro. Quindi se Buffon dice non me ne sono accorto, gli possiamo credere, non gli possiamo credere, non gli dobbiamo credere, è un bugiardo, è Pinocchio, quello che volete, ma lui fa portiere della Juventus e quindi non è compito suo quello di alzare il braccio e dire gol. Quindi su questo mi tengo la mia opinione. La colpa non è certo di Buffon, ma di chi non ha visto. E adesso volevo dire sì, non è suo compito, giustamente, come dice lei, però non dovrebbe anche essere così antisportivo dicendo anche se me ne sarei accorto non avrei parlato. È stato sincero più che antisportivo. Quella frase se la poteva serenamente risparmiare e dire: ragazzi, non ho visto, ma poi perché dovete chiederla a me? C'è un arbitro, ci sono guardaline, eccetera eccetera, volete la tecnologia, 250.000 ce la devo mettere io. Ci fermiamo per il traffico. Secondo un ascoltatore scrive un messaggio abbastanza condivisibile: pallone d'oro al telefono di Pardo. Io voglio molto bene a Cassano, ma questo qui bisogna chiederlo a lui. Anche in questo caso, se mi permette, parliamo di niente. Perché le dico parliamo di niente? Perché da quando è stato introdotto l'arbitro di area, che è stato introdotto esclusivamente all'inizio per vedere il gol non gol e poi magari anche in supporto ad alcune decisioni dell'arbitro centrale o vedere occhi in più vedono cose in più, mi preme ricordare che da quando c'è stata questa introduzione non è mai stata sbagliata la valutazione di una rete entrata o non entrata. Dice Nicky mai, Giovanni Capone. Ma no, ma può essere che domenica che di sicuro ragione. Hanno visto bene. Ma domenica gli è andata bene, non è vero, domenica non hanno visto nulla, perché Massa era impallato, gli è andata bene, siamo tutti contenti, altrimenti ce la saremmo trascinata per anni. Per fortuna o per bravura, tu dici per fortuna, per circostanze, non... Secondo me per esperienza, hanno giudicato sull'istinto, hanno valutato, siccome sono tutti ottimi professionisti, hanno valutato che... Che quel pallone probabilmente non era entrato, però è andata bene. La verità è che ti capitano 10 volte palloni al limite, situazioni al limite come quella di Milan Udinese, probabilmente le metà le sbagli. In è Inghilterra, in Inghilterra 10 su 10, certo, la indovini, la trovi, perché è tutto così semplice, così lineare. Quindi il signor Nicky può anche aver ragione che magari è difficile ammortizzare l'investimento in termini assoluti. Poi però ti capita un altro Milan-Juventus decisivo per lo scudetto, ti capita una cosa di questo genere, la credibilità del tuo prodotto scende. Sì. Quindi è come dire a un'azienda che non deve investire in tecnologia, in innovazione, perché costa. Ma Nicky vorrebbe investire in che cosa? In formazione degli arbitri, nello stipendio degli arbitri. Lui ha detto che se no si arriva con gli arbitri con la pancetta, se si tolgono quei soldi, milione, perché poi balla 1.600.000 euro, non è che gli arbitri di porta vanno lì gratis. Ah, chiaro, eh? È chiaro. È un arbitro che è difficile, per me non può arbitrare, perché io ho solo l'esperienza con l'Udinese, è stato sempre un arbitro che ha sbagliato tutto, sono 2-3 arbitri scarsi, si elimina questi arbitri, compreso questo qui, fanno una grande cosa per il calcio, no? Perché questo qui inquina un po' un ambiente bello, dove effettivamente adesso nessuno possiamo lamentarci degli arbitri, quei 2-3 arbitri rovinano tutto. Questo era Pozzo, naturalmente, dopo la partita di domenica. Antonio, provincia di Napoli, buongiorno. Salve a tutti. Vuole eliminarli fisicamente Pozzo. Beh, siamo ancora qui a chiederci chi sono gli altri 2 o 3. Ma non è difficile, un po' di storiografia, insomma. Antonio, provincia di Napoli, dica. Salve, no, vorrei intervenire sulle nomination per il pallone d'oro. A chi lo diamo? Io sarei propenso a darlo a Neuer. Ma dopo quello che è successo, nel 2006, quando lo meritava ampiamente Buffon, secondo me. L'hanno dato a Cannavaro, no? Sì, siamo cascati bene in questo senso. Però, secondo me Buffon non ha preso il pallone d'oro perché si è tenuto stretto alla Juve, è andato in Serie B, e quindi Cannavaro, che è andato al Real, ha avuto la chance in più, anche se lo meritava ampiamente anche lui, non è che... Sì, è successo solo una volta nella storia che il pallone d'oro finisse da un portiere, Lev Yashin. Negarlo a Buffon per darla a Neuer, a questo punto dico no. quindi nessun portiere vincerà mai il pallone d'oro perché nel 2006 non l'ha vinto. Allora nessun difensore lo farà mai perché non l'ha vinto Maldini. Nessun difensore Cannavaro, però. Ma secondo me Antonio nel 2006 fu premiato il capitano di una squadra che non aveva la stella, aveva tanti campioni, perché quella era una squadra di grandi campioni. Però lì credo che potesse anche, ad esempio, essere premiato anche Pirlo, perché no? Certo. Insieme a Buffon, insieme a Cannavaro. Certo. Cannavaro era il capitano di quella nazionale e secondo me fu scelto un po' come simbolo. Certo, sono d'accordo. Fu scelto come simbolo di una squadra che in quel mondiale di stelle non aveva nemmeno Totti, fu la stella di prima grandezza, Pirlo. Beh, in effetti Pirlo, pallone d'oro alla carriera, questo è un discorso che abbiamo sentito mille volte, dai. Pirlo, pallone d'oro alla carriera, ce ne sono tanti giocatori che pallone d'oro alla carriera lo meriterebbero. Giovanni Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo collegarmi sempre al gol non gol di domenica del Milan. No, al non gol. Non gol. No, perché poi adesso possiamo anche chiamarlo come si chiama. Non c'è nessun fantasma, non c'è nessun fantasma, non c'è nessun gol non gol, non è gol e non c'è fantasma. Dica. In effetti io questo volevo dire, confermare, perché siccome all'inizio tutti dicevano che era gol, proprio tutti ad occhi aperti, è gol. Ma il pallone io mi sono permesso di dubitarne da subito, sì, deve superare interamente la linea. Io sono rimasto un po' così a sentire opinionisti di un certo spessore che dicevano che era gol. Posso raccontarti una cosa, Giovanni, che è questa, che in realtà in Italia non abbiamo la certezza esatta di dove sia finito quel pallone, nel senso che anche l'animazione che ha usato Sky e le animazioni che hanno usato altre televisioni non sono la goal line technology e quindi in ogni caso hanno un margine di errore, lo spiegava credo ieri benissimo il moviolista di Sky, Lorenzo Fontani, che ha detto: guardate che in Italia noi non sapremo mai se quel pallone è entrato o no, noi siamo convinti che non sia entrato per qualche centimetro e più o meno tutte le animazioni l'hanno confermato, quelle che abbiamo visto noi. La verità è che soltanto il sistema che usano in Inghilterra è in grado di darti senza ombra di dubbio la risposta. Bet Corner, GR, poi torniamo, arriva anche Pardo, 800 24 00 24, il numero verde. Benassi, disturbato Benassi, l'intervento è regolare da parte di Bonucci, possibilità per la Juve, ancora con Morata, il tocco nella zona di Vidal, lo scarico verso Pirlo, Pirlo prova, Pirlo! Pirlo! Pirlo! 2-1 Juve, minuto 93, in 10 contro 11, Pirlo con una traiettoria incredibile, trova il gol del 2-1, un finale incredibile, un finale pazzesco. Ci siamo ragazzi. Qui lo studio è già abbastanza indisciplinato e questo mi mette di particolare buon umore. Adesso devo fare una comunicazione molto seria, non sto scherzando, non sto scherzando per niente. Giovanni Capuano è qui con me, Franco Pietrino, nostro autore, Fabio Cantadori, Daniele Bonamici. Allora, era stato sequestrato da Mediaset per il derby di Torino, ma il riscatto l'abbiamo pagato, lo giuro. Ci ho messo dei soldi anch'io. Adesso non lo troviamo più. Quindi, chi avesse notizie di Pierluigi Pardo, per favore si metta urgentemente in contatto con noi. Ripeto, non sto scherzando. Non è uno scherzo. È una cosa molto seria. Non lo troviamo più. Possono anche mandare una foto su Twitter. Sì, io preferirei avere notizie a voce perché non uso Twitter e sono veramente molto preoccupato. Comunque, proviamo ad arrivare lo stesso alla fine di questo programma, 800 24 00 24, perché quel che può valere, stavamo parlando di inezie, di nulla, di pallone d'oro, di tecnologia, di calcio, di sport, però di fronte a queste grandi preoccupazioni, come sapete, avremmo anche noi il diritto di poterci fermare, cosa che in Spagna non è accaduta. Nemmeno. Tra l'altro ti do una notizia, restiamo su temi seri, l'Atletico Madrid ha deciso di espellere il club di ultras responsabile della rissa di domenica. Ha detto: non li conoscevamo, non sapevamo chi erano. Lo possiamo fare, che si dissolvano è un'altra questione. Dissolvano? Sì, dissolvano nel senso di impedire poi club, che no? davvero che tornino, entrino allo stadio, non no, prendano altre fattezze. Era un club di tifosi estremisti, franchisti, molto noto, no? Cioè non è uscito dal cilindro magico di questa disgraziata mattina della domenica. E nemmeno il tema della violenza attorno agli stadi spagnoli. Io ti sentivo ieri con Filippo Maria, sì. Ricci, poi avevo letto anche Filippo sulla Gazzetta dello Sport ieri con questo conto: 11 morti dal 1980 in risse intorno agli stadi, dentro gli stadi, soprattutto a partire dalla fine degli anni 90, comunque una recrudescenza della violenza. Adesso vediamo come rispondono loro. Alla violenza. Al tema della violenza ci sono un sacco di provvedimenti che sono stati varati, ma a me puzzano molto di demagogia, però stiamo a vedere cosa combinano in Spagna. Intanto ripeto l'appello: se avete notizie di Pierluigi Pardo, l'avete visto, l'avete sentito, l'avete incrociato, chiamateci per favore, 800 24 00 24. Intanto ieri sera non la tiki-taka ma il processo del lunedì, Massimiliano Allegri. Ma credo che ha ragione Garzia, perché stanno tutti gli italiani, la Juve davanti alla Juventus, davanti alla Roma di 3 punti, e questo è quello che conta. Ma è andata come sanno tutti, Andrea ha fatto 10 anni al Milan vincendo tantissimo, insieme al Milan, insieme agli altri compagni, poi è stato un momento in cui ha cambiato, è andata alla Juventus. E credo che sia stato creato un equivoco grosso, perché credo che Andrea, fino a che è stato bene, ha giocato titolare nel mio Milan, e purtroppo l'anno lì è stato un anno sfortunato per lui. È rientrata a fine campionato quando ormai la squadra era indirizzata a vincere lo scudetto. Fortunatamente io dopo 4 anni di Milan sono arrivato ad allenare la Juventus e l'ho ritrovato, e direi anche dopo un infortunio iniziale, direi ora sta in ottime condizioni, e sono molto contento di avere un Pirlo così, soprattutto per ridarlo alla nazionale nelle migliori condizioni. Ma no, cosa invidio sicuramente è che lui ha vinto 3 scudetti, uno solo, e quindi ha 2 scudetti più di me. Spero magari nei prossimi anni di arrivare a vincere più di lui. Che cose sono migliori di lui? Domandatela a lui. E non mi interessa arrivare a 103 punti, mi interessa vincere lo scudetto anche solamente con un punto di vantaggio, e quello è l'obiettivo che dobbiamo centrare. Credo che Ibrahimovic sia stato il giocatore che più forte che abbia mai allenato. Direi che fino a questo momento sono stato molto fortunato, perché ho allenato dei buoni e degli ottimi giocatori a Cagliari, dei grandi campioni al Milan e alla Juventus. Questo Massimiliano Allegri dice bugie o racconta la verità? No, dice quasi tutta la verità, poi la bugia è quella su Pirlo. Però la sfortuna di Allegri è che prima di pensare che l'avrebbe rincrociato, Pirlo ha raccontato quanto accadde nelle credo prime 5 pagine della sua autobiografia, tra l'altro una delle più belle che ho letto, perché spesso sono libri assolutamente inutili, quella di Pirlo no. E lui racconta chiaramente come ci fu il problema che gli fu proposta una soluzione tattica che Pirlo riteneva non congrua con le sue caratteristiche. Ora l'aveva tolto dal centro del villaggio. Siccome la squadra del Milan non la faceva Galliani all'epoca, ma neanche adesso, c'è da presumere che al di là dell'aspetto economico, di cui a me risulta però non si parlò nemmeno, cioè non ci fu nemmeno una trattativa, anche 2 anni, 3 anni, molto, un anno. Chiedeva molto e per un contratto lungo. Pirlo, chiedeva quello che poi ha dimostrato di valere, quindi poi dopo la storia di Pirlo ci ha confermato che evidentemente valeva i 4 milioni che probabilmente aveva in testa di chiedere, ma di sicuro Allegri aveva in testa un Milan diverso, con Van Bommel, più muscolare, più geometrico, e quindi questa è la parte di responsabilità di Allegri. Poi io arrivo a dire che probabilmente Pirlo sarebbe andato via lo stesso dal Milan, perché quello era un Milan che stava cominciando a tagliare i costi, aveva una politica particolare sugli ultra trentenni, sui giocatori con un certo stipendio, e quindi forse anche se Allegri si fosse incatenato davanti alla sede per dire voglio tenere Pirlo, probabilmente Pirlo sarebbe andato via. E poi molti rimproverano al Milan di averlo regalato, messo in mano alla Juventus, consentendole di vincere poi quello che ha vinto in Italia. Voglio parlare invece di un'altra storia di molto, molto strana, perché onestamente il Borussia Dortmund, ultimo in classifica del campionato tedesco, è qualcosa di inimmaginabile. Da Sky Pietro Nicolodi, che sa tutto. Ciao Pietro. Ciao, ciao a tutti. Vanno in 80.000 a vederlo come se niente fosse al Westfalenstadion. In realtà la storia del Borussia Dortmund e del mago Klopp è finita. Perché? Tu sei molto categorico, vedo. È la classifica della Bundesliga ad essere. Sì, può sempre rialzarsi, nel senso che questo Borussia Dortmund è troppo condizionato dalle assenze, dagli infortuni, dai continui problemi che ha avuto Klopp per mettere insieme 11 giocatori che fossero almeno due volte gli stessi, mentre in questo periodo qui continuano a cambiare gli effettivi e evidentemente quelli nuovi non si sono ancora ambientati, quelli vecchi non stanno rendendo secondo le loro possibilità. In Champions League la cosa è stata mascherata in qualche maniera dalla vittoria contro l'Arsenal e dall'inconsistenza del Galatasaray. Adesso devono ricominciare da capo e vedere di salvare il salvabile in questa stagione. Sì, disgraziata. Decisamente disastrosa. È anche vero però che a furia di vendere i tuoi giocatori migliori può anche succedere aiuta, questo, no? Sì, non aiuta diciamo tantissimo. Diciamo che quando tu giochi male e hai Lewandowski... Sì, magari quello qualche gol te lo sbatte dentro, no? Stagioni, sì, ecco, qualche maniera te la butta dentro lui. Qui Lewandowski non si vede, l'altro giocatore chiave della squadra è Reus, ha giocato 6 partite, sì. Si fa fatica, insomma. Tra l'altro mi sembra che abbia una percentuale disastrosa tra occasioni create e gol segnati il Borussia Dortmund. Sì, perché tutto sommato la macchina da gioco, non dico che funzioni benissimo, però... non funziona da ultima squadra della classifica. Hanno preso una quantità industriale di pali e traverse, hanno sbagliato tanti gol, hanno commesso degli errori difensivi che francamente sono inaccettabili, soprattutto con Ginter che doveva essere l'uomo in più in difesa per dare una mano agli spesso infortunati Hummels e Subotic, invece sta dando una mano quasi tutti gli avversari quando gioca. Comunque la posizione di classifica al di là di tutto, di tutti gli infortuni e cose varie, Non è possibile che Borussia Dortmund sia appunto è una cosa pazzesca, no? Anche perché è una squadra al limite che possiamo dire che non fosse quinto, esatto. Non è primo perché c'ha gli infortuni, ma anche sesto, ottavo, decimo, ultimo in classifica è veramente una cosa che non è difficile spiegare anche con gli infortuni, forse, no? Beh, se tu sei ultimo, Pietro, gli infortuni c'entrano, ma c'entrano fino a un certo punto. La chimica è finita. C'è qualcosa che non sta quadrando sicuramente, e fanno molta fatica a trovarlo, e posso capire che facciano fatica perché non è così semplice dopo 4 anni in cui tutto va più o meno bene trovarsi in questa situazione qui e cercare di capirci qualcosa dopo una stagione partita bene, vincendo la Supercoppa che vabbè non conta assolutamente nulla, ma hai battuto comunque il Bayern e alcune partite giocate quest'anno confermano la qualità della squadra, perché a Monaco solo loro sono riusciti a passare in vantaggio e a giocare a viso aperto per 65-70 minuti. Ecco, uno dei problemi veri potrebbe essere la condizione fisica, che non è più straordinaria come quella di qualche anno fa, e lo dimostra il fatto che hanno preso un sacco di gol nei 20 minuti finali, che non è mai un buon segno. Un giocatore che a te, Giovanni, piace molto, come sappiamo bene, è Immobile, che è finito in questo calderone, non sta giocando una grande stagione, adesso si è anche fatto male, no Giovanni? Sì, credo Pietro sia abbastanza incolpevole, anche se mi pare di aver capito i media tedeschi, i tifosi del Borussia l'abbiano un po' segnato, e non mi stupirei tanto nei prossimi mesi di vederlo di ritorno in Italia. Ma sicuramente non ha cominciato nel migliore dei modi, al di là di qualche buono spunto in Champions. Secondo me gli va dato un minimo di tempo di ambientamento, come è stato dato per esempio a Lewandowski, che il primo anno faceva tranquillamente panchina alle spalle di Barrios e entrava ogni tanto nei 20-25 minuti finali, magari facendo bene, ma c'è spazio ancora per rimediare, io penso, in questa stagione, anche per Immobile, che aveva l'influenza l'altro giorno, per quello non ha giocato. Senti Dario, ma hai la sensazione che Klopp, che era uno degli allenatori più corteggiati del pianeta, abbia ballato una stagione di troppo? C'è questa teoria, no? Che bisogna rimanere un tot in una squadra di calcio per riuscire a tirar fuori sempre il massimo, e questo tot è stato quantificato in 3 anni. Se non sei Ferguson, evidentemente, certo. mi sa che Ferguson, però ce n'è un solo a questo punto. Io non so se questa teoria dei tre anni sia vera o meno. Il fatto che l'abbia fatta Bella Gutmann probabilmente mi spinge a dire che sia assoluta verità, per non contraddire il venerabile maestro, per carità, le sfighe del pianista. Però insomma, chi lo sa, forse un anno però, in più, beh, sai, ha rischiato molto, ha rischiato di suo, perché è chiaro che adesso il valore di mercato di Klopp, superstar globale, sì, tra l'altro parecchio diminuito. Tra l'altro non so nemmeno come si possa leggere quella dichiarazione, l'ho letta da qualche parte sui giornali, ha detto: io sono anche pronto a farmi da parte, purché ci sia la garanzia che dopo di me arriva uno che sa far giocare la squadra almeno come la faccio giocare io. E non ho capito se è una resa o se è un modo un po' di pungere tutto l'ambiente. Molto dipenderà chiaramente resa mai. Come vanno a finire le cose con l'Ofen, però non mi sembra il tipo che si arrende. L'ultima cosa, Pietro, stavamo parlando di Pallone d'Oro, uno in ballottaggio è Neuer. C'è un ascoltatore che mi scrive che avete, a Sky avete fatto un sondaggio per il quale Neuer avrebbe il 44% dei consensi popolari, Ronaldo il 40%, Messi solo il 16%. Confermi? E secondo te a chi dovrebbe andare sto Pallone d'Oro? Allora, vi dico subito una cosa. Io e il Pallone d'Oro non andiamo d'accordo, essendo e siamo in due di squadra. E siamo in due. Non me ne frega assolutamente niente di chi vince il Pallone d'Oro. Nel senso che se mi dovessero fare una domanda all'inizio dell'anno, preferisci vincere il Mondiale o il Pallone d'Oro? Io dico il Mondiale tutta la vita, sempre e comunque, e quindi del Pallone d'Oro non è vero più. Credo anche Cristiano Ronaldo risponderebbe così. Sì. Proprio di sì. Cristiano Ronaldo poi ha vinto la Champions quest'anno, quindi... Comunque Pietro, tu ci stai distruggendo una trasmissione, noi è due ore che parliamo del Pallone d'Oro. Argomento che ingrifa da morire tutti gli ascoltatori del pianeta, molto di più di... Arrivi tu e dici il Pallone d'Oro non serve a niente. Che comunque è la mia teoria, da sempre, cioè per me il Pallone d'Oro è un premio totalmente irrilevante, ininfluente e a tratti vagamente fastidioso. Quindi rifagli la domanda per bene, così lui ci dice cosa ne pensa veramente. Pietro Nicolodi, Neuer, Ronaldo o Messi? Dammi un nome. Perotti, come ha detto prima Timossi. Dai, va bene, dai. Grazie Pietro. Ciao. L'abbraccio, grazie. Allora, grazie Pietro Nicolodi. Nel frattempo, Deportivo La Corugna ha deciso su Asponte, mi segnala Franco Piantanini, di chiudere il settore dei Riazor Blues per le prossime due partite. Sì. È la frangia più estrema e più dura dei tifosi. Perché la notizia è che sono passate 60 ore e lì non hanno preso una squalifica, non è successo nulla dal punto di vista ufficiale. E non so neanche se, tra l'altro, il tifoso che è morto, non è morto per annegamento, dicono le indagini, ma perché ha preso delle sprangate in testa. Quindi questo tanto per la cronaca delle ultime ore. Omicidio, trattasi di omicidio. Mentre Ventura, per quel pollice lungo la gola dopo il derby, per aver mimato quel gesto a un tifoso del Torino che stava pesantemente insultando la sua squadra, ha preso una giornata di squalifica. 14:30 si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo certo, gioco. Sì, non c'è dubbio, sono d'accordo. Con moderni miti. Sì. Va bene. Alessandro da Firenze, buongiorno. Sono soldati di tromba. Alessandro, buongiorno. È caduto. No, c'è. Non c'è. È insieme a Pardo. Avete fatto apposta. Antonio da Genova, buongiorno. Sì, buonasera. Ascolti, una cosa seria, non sto scherzando. Dica. Ma di aver capito che Milan-Udinese ha vinto l'Udine, l'Udinese? Milan-Udinese ha vinto il Milan. Ma mi sembra che sentendo voi abbia vinto l'Udinese. Perché? Il gol fantasma non c'era, il rigore non c'era, c'era un rigore a favore dell'Udinese. Ma cosa c'entra? L'hanno scritto tutte le moviole ieri. La moviola non è valida. No. Finché ci sono gli arbitri che non c'è la moviola in campo, va bene, ma quello che è valido è quello che vede l'arbitro. È semplicemente cronaca. Ma l'arbitro cosa vede? Scusi, vede due mani del portiere al di là del palo con dentro il pallone. Ma infatti l'arbitro ha visto giusto, no? E non, ha detto che non era gol. Finché non c'è la tecnologia, mi sembra che non ci sarà. Se l'arbitro vede le mani del portiere 30 centimetri al di là del palo della porta, col pallone in mano, è gol quello. Perché se no, se voi mi dite che non si saprà mai, finché non c'è la tecnologia rimarrà sempre il dubbio che fosse gol. A dire la verità, la tecnologia disponibile in Italia che è quella delle televisioni, ha detto che non era gol. E poi con estrema correttezza, secondo me, ha anche spiegato che l'unica certezza potrebbe venire da quell'altra tecnologia che in Italia non è disponibile. Costa troppo, quindi non è disponibile. e che quella soltanto avrebbe potuto certificare. Però Antonio, secondo me mi pare una discussione sterile, assolutamente. Questa, in questa occasione gli arbitri hanno visto correttamente. Poi io capisco l'incazzatura di Stramaccioni, di Pozzo, hanno perfettamente ragione, perché l'arbitraggio di Valeri e dei suoi assistenti è stato al di sotto della linea della sufficienza, ma questo prescinde dalla questione del gol o non gol. E poi è altrettanto cronaca il fatto, ma questo documentato da quello strumento che sui campi spero non sarà mai disponibile, e cioè la classica moviola, ha detto che Ondaio aveva fatto fallo di mano e che il rigore provocato da Dumizzi non c'era, e che quell'altro l'aveva sgambettato e che era calcio di rigore. Era non un rigorone, ma poteva essere la domanda che io faccio ad Antonio e a tutti gli altri è: che cosa avrebbe detto e fatto Gagliani a magliette invertite? Voi datemi la risposta e poi credo abbiate anche la risposta sul perché si parla anche della moviola di Milan Udinese. Alessandro Firenze, buongiorno, tornato, sì. Forse dica. Sono cascato, ma è tornato in piedi, dica. Io sono una curiosità, sembra di notare negli ambienti degli allenatori italiani una cultura di base bassa, vale a dire tutto quello che deve detto dopo e tutte le volte circostanza. Mi piacerebbe sapere quello che dicono prima delle partite. Vorrei essere convinto dagli allenatori italiani, sentirli, so che è impossibile, ma sentirli parlare prima, alla vigilia di una mezz'ora prima della partita, per sapere cosa dirlo, perché secondo me manca un po' di cultura. Ma a dire la verità, parlano prima della partita normalmente, parlano in conferenza stampa alla vigilia di ogni partita. Mi sembra che parlino non poco gli allenatori italiani, anche nell'immediato pre-partita, ai microfoni di Sky, di Medias e di chi ha i diritti per far sentire pre-partita. Parlano anche troppo. Forse il problema è la qualità di quello che dicono. Oggi, ad esempio, sulla Gazzetta c'è una bellissima intervista di Deschamps, che invece parla molto poco. Però quando parla, secondo me, è da ascoltare. E dice, ad esempio, delle cose interessanti su Menes, su Pogba, su Coman. A Coman dice, ad esempio, che è contentissimo che lui sia alla Juventus, però poi ha bisogno di giocare. Di Pogba dice che alla sua età non ha visto nessuno fare quelle cose lì, però è anche ora che faccia il salto di qualità. Però detto dal commissario tecnico della nazionale francese, tutto questo assume un valore, un significato diverso. Il problema, secondo me, è che gli allenatori italiani parlano troppo, perché sono costretti. 50 partite significano 100 conferenze stampa prima e dopo, certo. Spesso a 2 giorni, 3 giorni al massimo di distanza, quindi parlano anche troppo, e questo significa che la qualità di quello che dicono, poi dicono cose interessanti, è un'altra storia, oggettivamente scende. Allora, borsa, poi torniamo insieme. 800 24 00 24, e ripeto, se avete notizie di Pierluigi Pardo, per favore fatevi vivi, fatevi sentire, diteci cosa sta succedendo. Però nel dire, Piero, che quella è stata la peggiore Juventus di questi ultimi mesi, non so se sia vero, ma mettiamo che sia vero, fa la Juventus un complimento pazzesco, perché se la peggiore Juventus di questi ultimi mesi vince una partita quanto mai arcigna contro un ottimo Torino, conquistando una palla sul fallo laterale all'ultimo minuto, beh, vuol dire che è una squadra di giganti. Allora, visto che è dicembre, è inverno, e ci sono anche gli sport di stagione, adesso voglio parlare di Giovanni Capuano, di nuoto. In Qatar, mondiale in vasca corta, periodo di Natale perfetto, è un contratto un po' stridente, però così è il calendario per chiudere la stagione del nuoto, mondiale in vasca corta. Stefano Arcobelli è già là in Qatar. Ciao Stefano, grazie per la Gazzetta dello Sport, naturalmente. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ciao, che ambiente c'è lì, per che ambiente accoglie che i nuotatori? Che temperatura c'è? Per adesso molte lamentele per il traffico, gli hotel disposti molto lontano rispetto alla piscina, questa Amada Aquatic Center. Soprattutto gli americani sono imbufaliti perché devono fare un'ora di strada, e questo naturalmente per gente che fa poi tante gare come l'Octet, certo, diciamo, condizionano un po', anche perché della situazione delle gare, si comincia la mattina alle 9:30, si finisce la sera alle 20, diciamo la locale, alle 18 da voi, però sicuramente non è una scelta felice dal punto di vista logistico. Però sai, ma c'è interesse? Ma è a livello di pubblico, di opinione pubblica, eccetera. Cioè. Diciamo, non c'è grande attesa, soprattutto lo vedo dal numero dei giornalisti, cioè ci sono tanti giornalisti, però non come i grandi eventi internazionali. Per dire, la Società del Press, che copre sempre tutto, non ha mandato un inviato, della Rai stessa non ha una spedizione, diciamo, quella tradizionale con tutto il gruppo. Sì. E quindi questo dà il segnale, non dico del poco interesse. Paradossalmente invece però abbiamo la migliore squadra italiana, perché abbiamo ci sono tutti rispetto a Berlino. Ma ci sono tutti, ma tu ti aspetti di vedere quei seggiolini rossi e gialli della Mada Aquatic Center completamente esauriti per le gare? No, non credo, però comunque stanno facendo in modo che ci sia un po' un colpo d'occhio, li buttano dentro, comunque li riempiranno, sì. Comunque Doha e il Qatar hanno intanto l'interesse a far venire bene l'immagine di questi eventi, perché in prospettiva è il paese che organizzerà i più grandi eventi calcio compreso, certo, nei prossimi 10 anni, quindi sicuramente il Qatar sta crescendo molto. Vedo che in giro appunto ci sono lavori ovunque, dappertutto si costruiscono palazzi, strade, piazze, però vediamo un po' se a livello sportivo gli impianti sono fatti bene, devo dire. Quindi quei problemini organizzativi di cui parlavi li consideriamo problemi di crescita? Sì, infatti c'è ancora un po' di caos. Ecco, infatti la dislocazione degli alberghi, ma purtroppo se gli alberghi non sono vicino al campo gara, questo è tipico. A Shanghai, devo dire, facevamo lo stesso, eravamo un'ora di strada, quindi non è che sia solo un problema di Doha. Senti, ma invece sul fronte sportivo Federica Pellegrini non ha mai vinto l'oro in vasca corta. L'abbiamo vista con una bella faccia contenta nelle interviste che sono passate in televisione. L'ho appena sentita, diciamo che sia abbastanza tranquilla. Lei si concentra sempre per dare il meglio di sé in estate. L'inverno è sempre, si dice che è la vasca corta è quella dei bambini, nel senso che si diverte, perché poi comunque si nuota poco, si vira tanto, il fattore, diciamo, le subacquee, le partenze sono determinanti e non sono mai state il nostro forte a livello proprio storico, perché è un modo di lavorare che noi non concepiamo sui particolari, sulla qualità di questi particolari, mentre noi siamo molto più sui volumi, andiamo sui chilometraggi. Questo è il segnale che lo stesso Paltrinieri, dice, dall'Australia, ha sottolineato le differenze rispetto agli americani e agli australiani. Riusciamo a fare troppi chilometri, ma non riusciamo a fare bene i particolari, e quindi in vasca corta soffriamo di più. Sì, il discorso che dicevi vale anche per Scozzo e per Greg Paltrinieri. Sì, tutti. Paltrinieri in particolare deve farsi un po' perdonare il flop dell'anno scorso di Herning, sì, a medaglia nei 1500 andò Detti, non Paltrinieri. Sì. Però al di là di questo, che Gregorio è attesissimo a Kazan e speriamo anche a Rio, all'Olimpiade, diciamo che abbiamo vinto soltanto 2 volte 2 ori in vasca corta ai mondiali, il che significa che comunque al di là della quantità, poi alla fine emergere anche in vasca corta è proprio difficile. Certo. L'ultima volta è stato bello perché Fabio Scozzo è stato il primo italiano a livello individuale e Ilaria Bianchi la prima donna a livello individuale, quindi l'unica cosa che forse Federica invidia alla Bianchi è questo primo oro in vasca corta, però probabilmente se dovessimo fare uno scambio Ilaria firmerebbe per la carriera di Federica. Sì. Un'ultima cosa, perché me lo chiede un ascoltatore da Padova, dell'Appezzato, che è giovanissima, è di Padova e degli mondiali, cosa mi dici? È l'ultima new entry, è una che quando era ragazzina faceva i tempi record giovanili della Pellegrini, poi ha avuto problemi alla spalla e adesso c'è questo ritorno che la segue Tonino Spagnolo, un allenatore, quello l'ex di Galenda, che diciamo fisicamente razza veneto, non razza piava, cioè è una di quelle che potrebbe aiutare molto. Ci saranno 12 staffette, che è un assurdo, un'altra di quelle cose assurde di questo evento, e quindi servirà molta gente, come dire, per fare quantità, e sicuramente giovani con tante energie, tanto entusiasmo servono, e Aglaia, che ha questo nome omerico di famiglia, è una bella novità. Sì. No, mi stavo facendo notare dalla regia che abbiamo anche un'altra new entry, che è Giorgio Minisini, nel, il sirenetto del nuoto sincronizzato, come scrivi tu sulla Gazzetta di oggi. Ah sì, devo dire che anche poco fa mi è arrivata una segnalazione da un amico che ha postato questo mio pezzo in cui si parla appunto di questa parità al contrario. Ed sì, è bello, poi alla fine sì, se lo sport riesce a regalarsi queste situazioni sono belle cose. Certo, non bisogna inflazionare per aumentare le taglie. Ah, certo, poi io continuo certo a pensare che, l'ho scritto nel blog stamattina, cioè che non si tratta di aumentare il programma di medaglie per regalare più medaglie, ma si tratta di omologarle alle Olimpiadi. Cioè, secondo me, il rischio di questi eventi, che durano spesso più delle Olimpiadi stesse, è che poi si perda anche il valore stesso delle medaglie. Chiaro. Anche in vasca corta, abbiamo inserito le tuffi, i tuffi di grande altezza, ora inseriamo il sincronizzato misto. Ecco, i tuffi sono stati inseriti addirittura i misti dai 3 metri e dai 10 metri. Tu dici un modo, può essere un modo per dopare, per drogare il medagliere con delle specialità che sono... Una ripartizione secondo me esagerata, dove alla fine confondi. Io dico che secondo me il valore di una medaglia ai mondiali, agli europei, è importante... viene equiparata ad una specialità olimpica. Certo, è chiaro, la stessa il parametro è quello. Ricordo il povero Alberto Castagnetti che proprio a Shanghai, proprio ai mondiali del 2006, Alessandro Terrin fu campione del mondo in vasca corta. Bene, Alessandro Terrin, mi ricordo al Castagnetti, mi disse: bene, adesso deve vincere con i 100 metri, perché sono i 100 metri che è la specialità olimpica, dove si vede se un nuotatore è all'altezza. Bene, Terrin purtroppo per lui non ha più vinto nient'altro e si fermava sempre ai 50 metri. Ottimo, splendido ragazzo, però... No, è chiaro, ripeto, il parametro è quello. Se la dà soltanto l'Olimpiade. Certo, è come organizzare un campionato del mondo di calci di rigore. Cioè, alla fine non hai il parametro di quello che sono di quelle che sono le competizioni reali. Alla fine non sta capendo proprio questo aspetto, che non riesce a calibrare bene gli eventi. Ripeto, un mondiale di vasca lunga in prossima estate a Kazan dura più di 2 settimane. Quindi quasi di un'Olimpiade. Certo, certo. 10 giorni bastano e avanza. Grazie Stefano, buon lavoro. Buon lavoro Stefano Arcobelli, inviato dalla Gazzetta dello Sport a Doha per questi mondiali di nuoto in vasca corta, in cui vediamo se a Pellegrini porta a casa il primo oro in questa particolare formula, appunto, della vasca corta, cosa che non ha mai vinto. Gennaro, provincia di Arezzo, dopo il traffico, perché c'è il traffico. Come detto, Gennaro della provincia di Arezzo adesso sì, buongiorno. Salve, buon pomeriggio, grazie per la convocazione. Io vorrei parlare dell'arbitraggio di Milan Binese. Sì. Io sono un tifoso rossonero, vedo le partite senza telecronaca ormai, perché quello che raccontano spesso si porta un po' fuori. Io sì, sullo 0-0, prima del gol non concesso, della palla dentro, ho visto un'azione dove Menez ruba il tempo al difensore, si mette tra il pallone e il difensore, e il difensore inevitabilmente gli frana addosso e lo butta giù. In questo episodio nessuno ne sta parlando. Io credo che sia un episodio simile al probabile rigore per l'Udinese. Non capisco perché Pozzo se la prenda così tanto, perché nel primo tempo, tra l'altro, il Milan ha giocato una partita eccellente, non è mai uscita. Ma no, ma allora siamo sempre al solito discorso, Gennaro. A parte che secondo me quella azione non mi pare di ricordare nemmeno grandi proteste, quindi è andata scivolata via in cavalleria come era giusto che fosse, perché non mi è sembrato di vedere un intervento scorretto, e di conseguenza la derubricherei a semplice episodio senza alcuna rilevanza, mentre quel lavoro dell'Udinese, ripeto, non era un rigorone ma uno sgambetto c'è stato. Detto questo, siamo sempre al solito discorso, cioè se sbricioliamo la partita, la polverizziamo in un milione di episodi, qualcosa di sicuro troviamo. La verità, il disegno della partita ha detto che il Milan ha giocato un eccellente primo tempo senza riuscire a passare. Nel secondo tempo non stava giocando così bene come nel primo, la partita si è sbloccata sull'episodio che conosciamo. No, mi pare così. E da lì in poi non c'è più stata partita. Ma poi ripeto, a maglie invertite, io credo che Galliani avrebbe avuto più o meno la stessa reazione di Pozzo, perché è già capitato in passato, e quindi e quindi io non mi stupisco che Pozzo si arrabbi, cioè io mi fermerei qui. Mi sembra surreale che adesso si chieda a Pozzo di chiedere scusa. Pozzo era arrabbiato, ha detto quello doveva dire. Poi con questo arbitro non si prendono, lo sappiamo da anni. Ieri abbiamo riproposto una sorta di cronin storia, una volta all'anno se la prende con Valeri, prima volta con Udinese Juventus 0-4, tra l'altro 0-4 è un po' difficile contestare l'arbitro, 0-4 però dopo 10 minuti la famosa espulsione con calcio di rigore che è un episodio condizionante. Poi c'è stata la Milan-Udinese 4-4, Milan-Udinese 1-0, 2-0 doppietto di Balotelli, prima partita 1-0, 1-0 rigore al 90esimo che non c'era, rigore su El Shaarawy, 2-1 da Balotelli. Comunque, Alessandro, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, avete avuto notizie di Pierluigi Pardo? No, ancora no. Abbiamo attivato la Farnesina. Ci siamo ragazzi. Se fosse Leo Turrini direbbe magari che è rimasto in galleria, intrappolato in galleria. Sì, no, ma c'è anche c'è anche Gabriele da Modena che scrive la stessa cosa, che è stato avvistato sulla Pero Cormano, sta spingendo la multipla di Montezemolo, è rimasto senza metano. Questo dice. Di Raikkonen che è fermo, che rallenta il traffico. Io volevo chiederle questo, non è mai venuto il sospetto a lei che quest'anno la Mercedes abbia voluto favorire Hamilton rispetto a Rosberg per il titolo del mondo? Perché da quando c'è stata quella specie di incidente che quest'estate che è uscito, come si dice, è uscito di pista Hamilton, poi sì, Rosberg, c'è stato quel contatto con conseguenti... contatto e poi hanno multato Rosberg, l'hanno richiamato duramente hanno richiamato Hamilton per un contatto su... no, ma era Rosberg che l'hanno multato, cioè, perché aveva provocato l'uscita se di... le sono... allora Alessandro scusi, aspetta, veloce. Da quella volta lì praticamente la macchina di Hamilton non ha mai avuto niente, la macchina di Rosberg ha avuto tre guasti, una volta l'accensione, una volta il KERS, una volta il motore, e poi è stato anche accondiscendente Rosberg quando è stato sorpassato da Hamilton. Praticamente gliel'ha regalato Hamilton. Hanno sabotato un'operazione di sabotaggio. Alessandro, io ho avuto invece la sensazione contraria a un certo punto che volessero favorire Hamilton, Rosberg. Ma non ce l'ho avuta soltanto io. Ce l'ha avuta anche Hamilton, esatto, che ha denunciato peraltro questa situazione. La verità è che erano un grande pilota e un bravo pilota sulla macchina migliore, se le sono suonate un po' per tutta la stagione, poi uno ha vinto 11 corse, l'altro ne ha 25 e giustamente si è portato a casa il titolo mondiale, quindi non credo ci sia stato una sorta di favoreggiamento, una sorta di complotto da questo punto di vista a favore di Hamilton. Ripeto, si diceva che qualcuno alla Mercedes vedesse di buon occhio il tedesco, finlandese, italiano, pilota tedesco su macchina tedesca con motore tedesco. Sempre solite cose che si dicono. Gianluigi, provincia di Roma. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io telefonavo in merito alla giornata di squalifica data a Ventura. Sì. Domenica. Posso anche essere d'accordo, visto il gesto poco educativo che ha fatto. Ma il tifoso? È l'impunità più totale, cioè un tifoso perché separato da un vetro o da una cancellata può dire tutto quello che vuole. Ma cosa dobbiamo dire al tifoso? A parte che nessuno ha ricostruito cosa gli stesse dicendo, quindi noi possiamo ipotizzare, anche ipotizzare che magari in maniera poco urbana da tifoso del Toro un po' deluso gli abbia detto perché non hai fatto l'ultimo cambio testa di quiz che perdevamo 30 secondi, cioè mi sembra che stiamo parlando di cose diverse. Offese veramente velenose, conoscendo Ventura. Oppure era molto arrabbiato, tra l'altro ha chiesto scusa. No, ma sono d'accordo. Guardi, io continuo a domandarmi perché i tifosi del Torino contestino Ventura, contestino questa squadra. Questo è il discorso che sta a monte. Poi è chiaro, in quella situazione, insomma, sei un professionista, ti insegnano a non reagire alle provocazioni di chi sta intorno. No, poi soprattutto non quel tipo di gesto. Io ricordo Mancini nella prima stagione all'Inter reagire con un tifoso dietro la panchina dell'Inter, si metteva sempre lì, lo contestava perché quella era l'Inter che pareggiava sempre, la prima Inter di Mancini, e lui dopo il famoso 3-2, quello con tre gol alla Samp in tempo di recupero, prima di uscire dal campo gliene ha dette di tutti i colori. però non aveva fatto quel gesto lì. Il gesto del tagliagole è brutto, è fuori luogo. Sì, quindi la squalifica, io credo che se Ventura gli avesse detto stai zitto cretino, sarebbe passato in fanteria. Ma resta il fatto che insomma ti dico, le provocazioni, è chiaro che le prendi di insulti, sei un bersaglio, c'è molta maleducazione, possiamo dire tutte queste cose insieme. È chiaro che quel tifoso non si è comportato bene e che probabilmente doveva andare a casa e stare zitto. Poi possiamo anche credere alle favole, alla fata turchina, però la realtà è questa, insomma. Ventura ha sbagliato a reagire e ha sbagliato a reagire in quel modo. C'è una telecamera pronta a riprendere Ventura che fa il gesto di tagliare la gola, molto probabilmente è stato ripreso anche il tifoso. Vabbè, ho capito, però il tifoso fa il tifoso, maleducato finché si vuole, non ha fatto niente di violento, non ha tirato in campo delle cose. È chiaro che non bisogna andare allo stadio a insultare il prossimo, questo dovrebbe essere, questa è la banalità più scontata che c'è. Però siamo direi su piani diversi, perché se i giocatori e gli allenatori si mettono a questionare e a fare il gesto del taglio della gola a tutti i tifosi che li insultano, non finiamo più di vedere queste cose e di squalificare giocatori e allenatori. Non possiamo mettere azione e reazione in questo caso sullo stesso piano. Senti, ma la raccontiamo quella di Ljajić o no? Raccontiamo. Ma bellissimo, tanto per chiudere, no? Abbiamo ancora un minuto. Oggi mi sarebbe piaciuto parlarne più a lungo, però Adam Ljajić, che è un fuoriclasse assoluto anche fuori dal campo, è stato fermato dai vigili a bordo della sua Ferrari 458 rossa fiammante senza targa. E sai cosa ha detto? Perché non si può? No, ma sai cosa ha detto? Anzi, mi spiace, l'ho persa. L'ho anche denunciato questo, però poi mi sono dimenticato di andare a chiedere una nuova e quindi andava in giro. Fuoriclasse assoluto, totale, senza targa. Ma non si può. No, non si può. Ma quando è che hanno cambiato le norme? No, ti danno la muove. Detto quanto viene. Vabbè, la sanzione è tra gli 84 e i 355. Lei non ha visto il divieto di sosta? E lei non ha visto che il divieto è dalle ore 8 alle ore 14? 14:30 si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Cioè praticamente 84 euro gli Ljajić. Sì, da 84 a 355. Ecco, li guadagna in 30 secondi. Ecco, esatto. 30 secondi, no? Tra qui e la sigla finale li ha guadagnati. Quanto viene? Immagina la targa, preoccupazione. No, aspettate, poi un giorno vado a chiedere, appena c'ho tempo vado. Si può risentire 14:30? No, magari un'altra volta. 14:30 si parte tra poco. Ciao, grazie Giovanni Capuano, Franco Pentini, il nostro autore, Fabio Cantadori in regia, Daniele Buonamici, redazione, ciao, a domani. Allora, gli elementi chiave per un equipaggio di Bob Vincente sono un buon pilota e tre bravi velocisti per la spinta sul ghiaccio. Sul ghiaccio? Sul ghiaccio? Certo. Beh, è uno sport invernale, no? Vuoi dire invernale nel senso del ghiaccio? Beh, certo. Vuoi dire invernale nel senso degli igloo, degli eschimesi, dei pinguini e dei ghiaccioli? Sì, penso di sì. Vi saluto. Dove vai? A farmi un bagno caldo, mi viene freddo solo a pensarci a tutto quel ghiaccio. No, amico, tu farai parte del mio equipaggio. Chi è il miglior pilota di go-karta spinta di tutta la Giamaica? Ce l'hai davanti. Allora sarai dei nostri. No! Guarda che potresti diventare famoso. Potrebbero mettere la tua foto in prima pagina. Ma tu hai detto di no. Ok, non fa niente, perché non ho bisogno di te. Un sacco di gente farà a botte per entrare nella mia squadra di Bob. Fate le tue risate, li vedo tutti seri. Convocati.